Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sicuramente il ponte verrà fatto. Il quando? Quindi basta con questo derby, ah sì, no, il ponte certo che ci sarà, prima o poi. L'importante è che prima, io mi sono molto pratico, mi scuserà il pragmatismo e la concretezza, prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute. Insomma, ogni tanto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, riaffiora il mostro di Loch Ness, in questo caso dal mare della Sicilia, dallo stretto intorno appunto tra la Calabria e la Sicilia, dove questo ponte si evoca, è un fantasma, proprio appunto sembra veramente il mostro di Loch Ness che di tanto in tanto qualcuno rievoca. Non si capisce più se è una barzelletta, se è un percorso travagliato, tormentato. Ogni tanto lo sappiamo, siamo abituati ogni tot a sentirlo nominare. Quindi Renzi ha detto che prima o poi lo si fa. Dice, certo, prima vanno fatte le opere che sono lì mezze e mezze, quelle incompiute, e poi si farà, prima o poi si farà. Va bene, rimaniamo con questa vaghezza e con questa rievocazione del mostro di Loch Ness. Parleremo però di cose molto serie questa sera, come sempre naturalmente, anche ogni tanto cercando di alleggerire, però la notizia così grave, drammatica, che è arrivata oggi dell'uccisione di due tecnici italiani in Libia, nel caos totale della Libia, ne parliamo spesso, ne abbiamo parlato anche ieri, anche a proposito dell'allarme dei 007 italiani, quindi ci torneremo con un'analisi approfondita tra poco qui Effetto Notte. Parleremo anche di questa attivista dell'Honduras, questa donna che aveva ricevuto una specie di Nobel per la difesa dell'ambiente e dei diritti umani, che è stata assassinata. Diciamo, un epilogo abbastanza comune in certi paesi quando si è degli attivisti coraggiosi come lo era lei. Ci occuperemo, per quanto riguarda le cose più caserecce, anche dei mutui. Il governo, qualcuno ci ha fatto un passo indietro, qualcuno ci ha fatto una modifica, qualcun altro dice no, c'era già insomma nell'aria di farla questa modifica. Insomma, non saranno più 7 le rate non pagate per cui la banca poi si piglia la casa, le rate del mutuo naturalmente, ma saranno 18, e su questo poi ci torneremo, ci sarà anche nella prima sintesi della giornata che farò tra poco, poi ci torneremo in un modo più divulgativo, diciamo. Per voi, quello che vi chiedo, a proposito sullo stretto di Messina, sul mostro di Loch Ness, vi chiedo, quindi, voi auspicate che prima o poi si faccia, visto che Renzi ha detto che prima o poi si farà? Lo sapete, ci sono sempre due canali vostri per interagire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349-238-6666, lo ripeto, pagina Facebook facilissima da trovare, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure gli sms 349-238-6666. Libia, uccisi due ostaggi italiani in Libia, forse usati come scudi umani dall'ISIS, sarebbero tecnici rapiti a luglio scorso, vivi gli altri due. Mutui, il governo corregge il decreto che recepisce la direttiva europea, case alle banche solo dopo 18 rate pagate in ritardo. Appalti, il Consiglio dei Ministri vara il nuovo codice, più potere all'autorità nazionale anticorruzione. Ponte sullo stretto, Renzi annuncia che si farà, ma prima le altre strade. Immigrazione, appello del Presidente del Consiglio europeo agli immigrati irregolari, non venite in Europa. Honduras, assassinata l'attivista Berta Cáceres, nel 2015 ebbe il Nobel alternativo dell'ambiente. Fumo, la Cassazione condanna la RAI per danni da fumo passivo. Una ex conduttrice del TG3 vince la causa. Emanare le circolari non basta se non si fanno rispettare con le sanzioni. Il caso Pistorius, l'alta corte del Sudafrica respinge il ricorso contro il verdetto di condanna, attesa la sentenza per omicidio volontario. Partiamo quindi dai due tecnici italiani uccisi in Libia, probabilmente in un conflitto a fuoco tra le forze di sicurezza e un gruppo di miliziani del sedicente Stato Islamico a Sabrata. Erano stati rapiti insieme a due colleghi nel luglio dell'anno scorso, i quali questi altri due sarebbero però ancora vivi. Torneremo tra poco su un'analisi, vi dicevo, dell'attuale situazione in Libia, ma intanto sentiamo quali sono state le reazioni dall'Italia. Sarebbero vivi gli altri due italiani rapiti in Libia, a dirlo il sottosegretario con delega ai servizi segreti Marco Minniti al Copasir. Una audizione durata 3 ore e mezza per il presidente del comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti Giacomo Stucchi. Adesso la priorità è salvare gli altri due ostaggi. Assolutamente sì, ed è per questo questo che serve osservare un rigoroso silenzio su tutta una serie di situazioni che sono molto delicate. Evidentemente in questo momento erano trasportati separatamente dagli altri due, ma non vuol dire che fossero stati divisi o se sono stati divisi da quanto tempo. Non si sa, questo deve essere appurato. I morti sarebbero stati riconosciuti utilizzando tecniche fotografiche. Ci auguriamo che i corpi rientrino in Italia al più presto, dice Stucchi. Le opposizioni intanto chiedono che il governo intervenga in Parlamento, ma è polemica per le parole di Matteo Salvini della Lega. Chi comanda in Italia in questo momento ha le mani sporche di sangue. Penso a Renzi, penso a Mattarella, penso a chi non sta facendo niente per limitare un'immigrazione senza controllo, penso a chi non sta muovendo un dito per combattere l'ISIS. A Salvini risponde Emanuele Fiano del PD, per il quale comunque un intervento italiano in Libia è sempre più vicino. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il tema caldo dei mutui. Saranno 18, vi dicevo, e non 7 le rate che faranno scattare l'amorosità per consentire alla banca di mettere in vendita la casa. E questa è una delle novità portate dalla maggioranza al decreto mutui. Oggi il governo è impegnato anche sul fronte del nuovo codice degli appalti. Salgono da 7 a 18 le rate che faranno scattare la morosità, consentendo quindi alla banca di mettere in vendita la casa. Opzione possibile senza il passaggio all'asta giudiziaria, solo se il cittadino ha sottoscritto liberamente la relativa clausola. Queste le modifiche a firma Partito Democratico e che il governo si è impegnato a recepire. Tutte le novità riguarderanno solo i nuovi mutui e non i vecchi, spiega il capogruppo PD Rosato. Sono condizioni che la Commissione esprimerà nel suo parere, ma sono condizioni che riceveranno il parere favorevole del governo. L'innalzamento del numero delle rate è solo un contentino della maggioranza, commentano dai 5 Stelle, via il decreto. Altro fronte quello degli appalti, via libera al nuovo codice, basta allegare al massimo ribasso, addio alla legge obiettivo, il rischio operativo è a carico dei privati, si ridurrà così il contenzioso, spiega il ministro delle infrastrutture Delrio. Qualità quindi degli operatori, qualità delle stazioni appaltanti, qualità del progetto a gara e qualità anche delle gare. Altro capitolo, il ponte di Messina verrà fatto prima o poi, dice il presidente del Consiglio Renzi, l'importante è che prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute. Vincenzo Miglita, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cosa ne pensate dunque della futura costruzione del ponte sullo stretto di Messina, sul quale appunto è ritornato Renzi, che ha detto che prima o poi si farà? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, sul quale già vedo diversi vostri messaggi. Anche la questione dei mutui è un tema sul quale poi torneremo più tardi con Effetto Notte. Adesso le elezioni amministrative fanno gli ultimi fuochi, le campagne elettorali a Roma e a Napoli, dove domenica gli elettori di centrosinistra a Roma e Napoli sono chiamati al voto per le primarie. Se davvero Verdini ha voglia di primarie, convinca la destra a organizzarle, le nostre sono off limits per chi non è di centrosinistra. Parole del presidente PD Matteo Orfini, che chiude la porta al gruppo ALA dopo le indiscrezioni pubblicate su Repubblica, secondo le quali Verdini si stava muovendo per sostenere i candidati renziani alle amministrative, Roberto Giachetti alle primarie romane, che si terranno domenica, Giuseppe Sala per la corsa Palazzo Marino a Milano. A stretto giro la reazione dei verdiniani: non siamo iscritti al PD, non abbiamo intenzione di partecipare a questa battaglia, fa sapere Ignazio Abrignani, stretti collaboratore di Verdini. Nel pomeriggio il confronto finale tra i 6 candidati a Roma, ma primarie del centro-sinistra domenica anche a Napoli. Domani alle 15 il primo e unico confronto. Presenti Marco Sarracino, Antonio Marfella e Valeria Valente, ma non Antonio Bassolino, che ha comunicato di avere altri impegni elettorali. Intanto a Milano ancora nessuna intesa tra Beppe Sale e Francesca Balzani per costruire una coalizione larga di centro-sinistra. Le trattative proseguono, ma nel frattempo si fa sempre più plausibile una discesa in campo di Gerardo Colombo, l'ex magistrato simbolo di Mani Pulite. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso di immigrazione, perché c'è stato l'appello del presidente del Consiglio europeo Tusk agli immigrati irregolari. Non venite in Europa, dice, non date retta ai contrabbandieri. Intanto il primo ministro greco Tsipras ha detto la Turchia riduca i flussi dei migranti che arrivano, appunto, come abbiamo visto in questi giorni in Grecia, la drammatica situazione della Grecia. Poi l'Unione Europea annuncia sanzioni per chi viola i trattati europei. E poi c'è questa bozza dell'Unione Europea, secondo la quale se cade l'accordo di Schengen si pagheranno parecchi miliardi in 10 anni. Dal punto di vista economico, recenti studi hanno mostrato che in caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, quindi allo spazio Schengen, che è quello della libera circolazione delle persone, se dovessero essere reintrodotti i controlli alle frontiere in un periodo di 10 anni, la performance economica dell'Unione Europea nel suo insieme sarebbe ridotta di una cifra tra 500 e 1.400 miliardi di euro. Questo è scritto appunto nella bozza della roadmap per ripristinare il pieno funzionamento nell'area Schengen preparata dalla Commissione Europea, che sarà presentata domani dal commissario degli affari interni Avramopoulos. E adesso di nuovo in Italia con la cronaca. I carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona, hanno intensificato la protezione alle sorelle di Pietro Maso in seguito alle minacce di morte che il fratello avrebbe rivolto alle due donne. Maso, che oggi ha 44 anni, nel 2013 ha finito di scontare 22 dei 30 anni di condanna per aver massacrato insieme a degli amici i genitori nel 1991 a Montecchia di Crosara. Ne parleremo più tardi con Effetto Notte con una nota criminologa. Cioè, può cambiare un personaggio così dopo quello che aveva fatto, dopo tanti anni scontati in carcere? Perché torna, diciamo, tra virgolette, a inguaiarsi? A Roma invece adesso, a Roma, a fare notizie nelle ultime ore è stata l'emergenza topi, che ieri ha costretto alla chiusura un desk della biglietteria dei Fori a Palatino di fronte al Colosseo per permettere la disinfestazione, come racconta il sovrintendente Francesco Prosperetti al microfono di Adriana Fracchia. A Roma fa più notizia un topo di un piano organico di interventi per valorizzare i monumenti e le attrazioni culturali di Roma. È stata per me una sorpresa, ma le cose vanno così. Il topo c'era, ma devo dire che al Foro Romano è un grande pezzo di campagna all'interno di Roma. Ci stanno anche i ricci, i conigli, ci sono tante manifestazioni di vita naturale. Quindi nega che ci sia una emergenza topi così devastante. Che a Roma girino un po' più di topi del normale è cosa nota da tempo, ma non è compito mio porvi rimedio. Secondo lei bisognerebbe fare di più però? Noi la derattizzazione delle aree archeologiche è una delle cose che facciamo con regolarità. Ripeto, sono quasi 20 ettari di terreno naturale all'interno di Roma, quindi può succedere. E adesso invece trasferiamoci in Honduras, dove l'ecologista indigena Berta Caceres, nota per le sue battaglie ambientaliste e anche per i diritti umani, è stata uccisa da uomini armati nella località di La Esperanza, nell'est del paese. Lo ha annunciato Ugo Maldondo, presidente del Comitato per la Difesa dei Diritti Umani, che è un'organizzazione non governativa locale. Nel 2015 Berta aveva ottenuto il premio Goldman, che è considerato il più prestigioso al mondo per quanto riguarda la difesa della natura, il riconoscimento alla sua lotta a favore dei fiumi, dei corsi d'acqua dell'Honduras. L'organizzazione del premio denunciava costantemente sul suo sito e sui social le continue minacce di morte che riceveva. Ne parliamo con Roberto Darin del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, diciamo che è più o meno purtroppo la fine che molti coraggiosi attivisti dei diritti umani e dell'ambiente fanno in certe aree, in certe nazioni e non solo lì. Sì, buonasera a tutti. È andata così in Honduras, come tu Roberta hai raccontato. È stata assassinata Berta Caceres, che era stata una leader importante, che si è battuta negli ultimi anni con forza nella difesa di questa comunità indio, che era costituita da solo 600-700 famiglie, ma la sua battaglia era conosciuta e riconosciuta in tutto l'Honduras. Purtroppo dal colpo di Stato del 2008 e poi ha avuto una coda nel 2009, la situazione è peggiorata drasticamente in Honduras, dove più di 400 concessioni minerarie sono state offerte a delle multinazionali che non hanno avuto grande considerazione del territorio né dei diritti dei locali. E così è andata. Lei è stata minacciata a lungo, i suoi figli vivevano in Argentina, li aveva volontariamente messi al sicuro, insomma. Messi al sicuro, purtroppo è accaduto quello che è accaduto. Grazie Roberto Darin, ed è giusto ricordare questi personaggi, sono persone che sanno di essere costantemente sotto minaccia, che sanno probabilmente quale sarà la loro fine, ma senza di loro, effettivamente, senza essere demagogici o banali, insomma, il mondo davvero sarebbe peggiore. Adesso ritorniamo in Italia con questa sentenza della Cassazione. La Cassazione condanna la RAI per danni da fumo passivo. Un'ex conduttrice del TG3 ha vinto una causa. I supremi giudici confermano la condanna a risarcire la giornalista, ora in pensione, con 32.000 euro. euro, più interessi per danni biologici e morali da fumo passivo. In quanti luoghi di lavoro, no? Queste cose. L'azienda si era difesa adducendo che aveva messo delle disposizioni antifumo, ma per la Corte le direttive non bastano se non si fanno rispettare con delle sanzioni. C'è anche un aggiornamento sulla vicenda di Pistorius. La Corte Costituzionale del Sudafrica, la più alta istanza processuale in Sudafrica, ha respinto il ricorso di Oscar Pistorius contro il verdetto per omicidio volontario emesso nel processo di appello per la morte di Riva Steenkamp, la modella, sua ex fidanzata. Lo ha dichiarato uno degli avvocati dell'atleta, che il 18 aprile conoscerà quindi la sua sentenza. Pistorius a questo punto rischia almeno 15 anni di carcere. Poi c'è un lutto nel mondo dello sport internazionale: morta a soli 33 anni Sarah Tait, australiana, argento olimpico a Londra 2012 nella canoa. La Tait, che lascia il marito e due bambini, è stata uno degli elementi di punta del canottaggio australiano fino al 2014, quando si era ritirata dalle competizioni per combattere un cancro l'anno prima. La Tait è stata la prima madre a vogare per l'Australia alle Olimpiadi dopo la nascita del suo primo figlio nel 2009, cose che sanno fare giusto le donne, di ritornare a essere grandi campionesse anche dopo una gravidanza. Per il calcio, dopo le emozioni della Coppa Italia, domani già torna il campionato con l'anticipo della 28esima giornata di Serie A, un Roma-Fiorentina che vale un pezzo della qualificazione alla prossima Champions. Sentiamo il tecnico giallorosso che elogia così i viola di Paolo Sousa. Hanno creato un'opera d'arte, questa è la verità. Secondo me hanno fatto un calcio moderno, un calcio spettacolare. Hanno creato una squadra solida, una squadra tosta, convinta di poter avere delle possibilità importanti. E forse andando poi a prendere in esame il gruppetto delle squadre di cui fa parte la Fiorentina, è quella che è stata più brava di tutti a lavorare. Questa è la notizia extra di oggi. Parliamo della pelle dei futuri robot. Si illumina, cambia colore se viene sfiorata, elastica al punto che riesce a allungarsi, pensate, fino al 500%, percepisce il tatto e la pressione, la pelle high tech che si ispira al polpo e che in futuro potrebbe rivestire i robot, illuminandosi se il loro contatto con l'uomo non è abbastanza delicato, rendendoli mimetici all'occorrenza. Questa ricerca, questa scoperta, descritta sulla rivista Science, è stata realizzata dal gruppo dell'americana Cornell University in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Ci siamo ispirati alla pelle del polpo e abbiamo ottenuto un materiale con proprietà tattili e iperelastico al punto che può essere deformato, appunto, come dicevamo, del 500%. Così ha detto Barbara Mazzolai dell'ILT, appunto questo centro di Genova, che fra gli autori della ricerca è recentemente lei è entrata nella classifica internazionale delle donne geniali della robotica insieme a un'altra italiana, Cecilia Laschi, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Molto bene queste eccellenze. Intanto, a proposito di eccellenze, guardiamo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666 sulla rievocazione di quello che io chiamo il mostro di Loch Ness, perché ogni tanto riaffiora il ponte sullo stretto di Messina. Oggi Renzi ha detto si farà prima o poi, però prima le opere incompiute. Allora, sulla pagina Facebook Alessio scrive: è stato già dimostrato che è quasi impossibile la ricostruzione di un ponte su quello stretto per insormontabili problemi di deriva dei continenti. Sicilia e Calabria appartengono a due zone differenti. Dice qualcuno: avverta l'ex concorrente della ruota della fortuna, perché Renzi da giovanissimo insomma già aveva giocato, prima che il mondo ci rida dietro ancora una volta. Enzo scrive: le comunicazioni sono fondamentali per lo sviluppo di una nazione. Se fossimo un paese serio, senza sprechi e corruzione, la Salerno-Reggio Calabria e il ponte sullo stretto dovevano già essere costruiti 50 anni fa. Purtroppo ora i soldi sono pochi e dobbiamo utilizzarli per mettere in sicurezza le strade comunali, provinciali e statali della Sicilia ed eliminare in tutta Italia il rischio esondazioni. Quindi qualcuno pro, qualcuno contro. Continuate sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per gli sms. Viabilità. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi. Ancora uno sguardo ai vostri tanti messaggi a proposito della rievocazione da parte di Renzi del ponte sullo stretto di Messina. Maurizia scrive sulla pagina Facebook: ah, se prima bisogna terminare le opere incompiute, come ha detto Renzi, occorrerà aspettare il 2316, quando magari i ponti non esisteranno più perché ci saranno altre tecnologie. E poi anche al 349-238-6666, Renzi si è reso conto che senza i voti della mafia non potrà avere nessuna possibilità di vincere un'eventuale rielezione, ed ecco la ricetta Micheli, cioè un po' drastico, un po' duro, complottista. E Claudio da Roma, bene che si faccia il ponte dopo tutte le altre opere, ovvero purtroppo mai. Gianni dice: il ponte sullo stretto si potrà fare quando il PIL italiano crescerà del 3% l'anno, cioè appunto quando ci saranno i soldi. Adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti e poi andiamo su quella purtroppo principale della giornata. Libia, uccisi due ostaggi italiani in un blitz a Sabrata e probabilmente nell'attacco di milizie libiche a un convoglio di jihadisti, questo secondo i libici. Mutui, si cambia la morosità, passa da 7 a 18 rate l'eventualità in cui, appunto, la morosità per cui le banche possono poi prendersi la casa. Protesta il Movimento 5 Stelle e poi il governo che rivoluziona gli appalti, più potere all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, e c'è il Consiglio dei Ministri che ha varato il nuovo codice appunto per quanto riguarda gli appalti. Il presidente del PD Orfini che chiude a Verdini, sapete che c'è questa polemica sulle primarie di Verdini, che per esempio a Roma vorrebbe sostenere il candidato del PD Giachetti, uno dei candidati insomma del centrosinistra, ma Orfini dice no, Verdini non è del centrosinistra e quindi non c'entra. Appello di Tusk, presidente del Consiglio europeo: ai migranti irregolari non venite in Europa. Intanto il presidente del Senato Grasso denuncia oggi manca una strategia nella gestione dei profughi. Attacco contro la polizia a Istanbul, uccise due assaltatrici, probabilmente di un comando di estrema sinistra. E poi per quanto riguarda questa sentenza, vi dicevo prima, della Cassazione che condanna la RAI per danni da fumo passivo. In attesa del primo ospite, riguardo ancora i vostri messaggi a proposito del ponte sullo stretto di Messina. Avevo fatto sentire all'inizio Renzi che dice il ponte prima o poi si farà, una cosa che sa da fare, però prima bisogna realizzare le opere incompiute. Dice per esempio Antonio: facciamo un ponte dalla Sicilia a Libia per mandarci i politici siciliani nazionali per poi abbatterlo definitivamente. Quindi so che ogni tanto diciamo questi temi scatenano anche la vostra ironia. Allora Francesco da Udine, scusa Francesco, ora ti dico questa cosa. Dice: caro Roberto, non hai neanche accennato nei titoli della Repubblica Stampa, ieri ne abbiamo parlato lungamente. Francesco, dov'eri? O sei presente il giorno stesso in cui io parlo della notizia del giorno, o non ne parlo il giorno dopo della notizia del giorno prima. Scusa. Continuate al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma sulle notizie di oggi. È inutile stare sulle notizie di ieri o dell'altro ieri, man mano ci sono delle evoluzioni. A proposito delle notizie di oggi, la notizia è di questi giorni, nel senso di polemiche si sono susseguite in questo recepimento di una direttiva europea sui mutui, però è del tardo pomeriggio la novità che il governo, per qualcuno ha deciso di fare un passo indietro, per qualcun altro c'era già in mente questa correzione nel decreto che appunto recepisce la direttiva europea sui mutui. Ne parliamo con il vice direttore del Sole 24 Ore, Chicco Padula. Caro Chicco. Ciao, buonasera. Allora, io intanto vorrei far sentire Rosato del PD che annuncia questa modifica, e poi sappiamo che hanno protestato molto in questi giorni l'opposizione, ma in particolare il Movimento 5 Stelle. Quindi prima Rosato. Siamo impegnati ad approvare delle norme che aiutino i consumatori anche nella sottoscrizione dei mutui, con costi più bassi e maggior certezze. Noi lo facciamo con la consapevolezza che è un settore difficile e questo è il momento per essere vicini alla gente. Altri invece mettono la testa sotto la sabbia e continuano a urlare. Questo è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle. Allora, a proposito del Movimento 5 Stelle, sentiamo Di Maio. Renzi ha fatto un decreto in cui se sei in ritardo di 7 o 18 rate su un mutuo trentennale, la banca può prendersi la casa senza più ascoltare il tuo avvocato. Allora noi da qui, stasera, vogliamo chiedere al governo il ritiro del decreto. Non vogliamo contentini e sappiate che è meglio che questa battaglia la fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle che i cittadini con i forconi in mano tra qualche anno. Perché questo decreto è un atto ignobile nei confronti del bene fondamentale delle famiglie italiane, che è la casa. Insomma, diciamo, Chicco Padula, che il rapporto tra banca e consumatori ulteriormente si è un po' ad alta tensione dopo il famoso salvataggio delle quattro banche, tra cui Popolare e Etruria. Le norme del bail-in, che se una banca fallisce in difficoltà ci rimettono anche i correntisti, eccetera, eccetera, che hanno dai 100.000 in su. Adesso c'è questa questione delle banche che si possono prendere la casa dopo 7 o 18 rate. È giustamente, come dici tu, un intreccio diabolico questo, no? Tra questa cosa dei mutui, però... ma giustamente tu hai ricordato anche, diciamo, il bail-in, che poi è un po' la conseguenza estrema ai casi in cui le banche non riescono, la banca non riesce, diciamo, a rientrare dei prestiti che ha effettuato, ovviamente non solo i prestiti per l'acquisto delle case, i mutui, ma anche i prestiti alle imprese, eccetera. Quindi, diciamo, la platea e il bacino si allarga notevolmente, però insomma le due cose un po' coincidono. Adesso, insomma, poi l'altra cosa che mi viene in mente è che ogni volta che si tocca la casa, che si arriva a parlare di casa, succede sempre qualche guaio. Adesso diciamo che arriva questa proposta, che, se capisco bene, è stata, diciamo, avanzata dal PD, sì, e il governo però diciamo l'ha fatta propria, quindi la condivide. Nel testo precedente la banca poteva chiedere, diciamo, il diritto a entrare in possesso di fatto dell'immobile se il debito non veniva, veniva saltato, se il mutuo, la rata del mutuo veniva saltata per sette volte. Adesso si passa a 18 rate, che insomma è tanto, si eviterà la procedura giudiziaria, che diciamo è un po' poi il motivo per cui questa norma era stata fatta, cioè il tentativo di accelerare quella fase molto lunga che prevede il contenzioso tra la banca e il mutuatario, cioè l'intervento del giudice che poi deve decidere, insomma, di mettere la casa all'asta. E insomma mi sembra che purtroppo, insomma, in queste situazioni qui è sempre molto, come dire, difficile conciliare le esigenze che sono, direi, legittime di chi ha prestato i soldi in qualche modo e quelle di chi invece l'immobile lo occupa e pensa di avere giustamente il diritto di abitarci, anche se salta qualche rata. Senti, Chicco, il Movimento 5 Stelle oggi ha avuto 11 espulsioni per le proteste, ha sentito con Di Maio, ha detto ritiriamolo del tutto questo decreto, è possibile, o essendo una direttiva europea non ci si scampa? No, io guarda, onestamente non penso sia possibile evitare questa cosa, perché questa appunto è una norma che deriva dall'adeguamento dell'Italia alle disposizioni europee. Posso anche dire che in fondo mi sembrerebbe anche un po' diseducativo ritirarlo, perché poi, insomma, ripeto, sono temi delicati e non voglio, come dire, offendere o nessuno, non voglio, però insomma poi alla fine, se uno fa un mutuo e non è in grado di sostenerlo per un periodo lungo, eccetera, insomma qualche domanda ce la dobbiamo fare, perché se no allora stabiliamo che lo Stato deve, diciamo, pagare, garantire che tutti abbiano la casa, che cosa che si può fare, ma dobbiamo saperlo, perché poi in qualche modo le finanze pubbliche dovrebbero sostenere il costo. Quindi secondo me, insomma, tra l'altro voglio dire, la normativa attuale, no, è stato detto, l'ha scritto anche stamattina un collega sul Sole 24 ore, la normativa attuale già prevede che adesso, dopo sette rate, la banca possa far partire, diciamo, tutta questa procedura che poi porta all'espropriazione dell'immobile. Non è che è una norma diversa, è certamente, diciamo, l'eventualità che questa procedura si possa fare senza passare dal tribunale, quindi è un'accelerazione, insomma, molto, no? Esatto, in tempi molto più rapidi, chiaramente cambia il quadro. Semmai la cosa sulla quale è importante riflettere, e mi sembra che il testo approvato, proposto oggi, vada in questa direzione, che si devono evitare eccessi, cioè ci vuole la garanzia che chi valuta l'immobile, chi valuta, il perito che valuterà questi immobili, sia una persona, diciamo, assolutamente indipendente, non scelta dalla banca, possibilmente nominato dal tribunale. Quindi procedure trasparenti, chiare, assolutamente trasparenti. Il proprietario deve avere la possibilità, ad esempio, anche di nominare un suo perito di parte per confrontare comunque il valore che viene fuori con quello che risulterà dal perito ufficiale nominato dal tribunale. E però dopodiché, se uno purtroppo, sono situazioni molto molto tristi, però se uno è insolvente, servente e alla fine qualche ragionamento bisogna farlo, purtroppo. Grazie Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, ciao. Ora vi dicevo sul tema purtroppo centrale della giornata, con i due italiani uccisi in Libia. Si tratta di Fausto Piano e Salvatore Failla, due dei quattro dipendenti italiani, gli altri sono Filippo Calcagno e Gino Poilicardo, della Bonatti di Parma. Di questa azienda che erano stati rapiti in Libia nel luglio del 2015, sarebbero stati colpiti durante un conflitto a fuoco tra le forze di sicurezza libiche e un gruppo di miliziani del sedicente Stato Islamico. È successo a Sabrata in Libia mentre stavano per essere trasferiti probabilmente da un covo all'altro, visto che erano ostaggi. Due sarebbero morti quando il convoglio su cui viaggiavano è stato attaccato da forze di sicurezza libiche. È ancora tutto da confermare. Da tempo pare che fossero stati separati dagli altri due colleghi, che secondo le informazioni di intelligence dovrebbero essere ancora vivi. I corpi dei due italiani sarebbero ora nelle mani dei miliziani. È tutto un condizionale, perché appunto le cose vanno ancora verificate. E proprio ieri in Parlamento, vi ricordate, ve ne avevo parlato, era stata presentata la relazione annuale del Dipartimento che coordina l'attività dei servizi segreti, dalla quale emergeva un allarme terrorismo per l'Italia, cioè di un nostro paese sempre più esposto a possibili attacchi terroristici come in Francia. E poi diceva questa relazione: sul piano internazionale l'attività dei servizi segreti è stata concentrata e continuerà a esserlo in primo luogo sulla Libia, la cui stabilizzazione resta determinante. Ne parliamo con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, la Libia, lo si continua a ripetere, ormai è in un caos ingestibile, politicamente spaccata in due, con due governi, quello di Tripoli e quello di Tobruk. Si aspetta da tempo che ci sia un governo unitario. Più volte dall'Italia è stato detto sì, interveniamo, anche in questi ultimi due giorni Gentiloni l'ha detto, interverremo quando ci sarà un governo. Però sembra effettivamente un orizzonte molto lontano questo, Alberto. Non c'è dubbio, anche nel caso si formasse un nuovo governo libico, cosa assai complicata e difficile, pensate che spezzoni di questo governo stanno un po' a Tobruk, un po' a Tripoli e alcuni in Tunisia, in qualche albergo tunisino, altri in Marocco, quindi direbbe far rientrare, portarli a Tripoli con grandi rischi. E poi questo non vuol dire nulla, perché questo paese, oltre all'ISIS, oltre al califfato, è percorso da centinaia e centinaia di milizie armate. Già. Metterle d'accordo tutte non è facile. Alberto, quindi a questo punto, diceva oggi, sentiamo anzi il direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Massolo, che insomma il capo degli 007, sentiamo che cosa ha detto. Quella è una zona di intensi combattimenti, una zona dove milizie combattono Daesh. È arrivata la notizia che in uno di questi scontri ci erano vittime che potevano essere occidentali. Purtroppo dalle foto ci sono delle somiglianze con due dei tecnici della Bonatti. Sono delle foto che sono anche in circolazione e c'è una somiglianza, esistono delle somiglianze. Non abbiamo i corpi e quindi dobbiamo aspettare di averli per poter fare le analisi autoptiche. Oggi c'è stata l'audizione al COPASIR, al Comitato sui Servizi Segreti Parlamentari, del sottosegretario con delega all'intelligence Minniti. E Giacomo Stucchi, che è il presidente del COPASIR, ha detto ora la priorità è salvare gli altri due ostaggi, quindi serve osservare un rigoroso silenzio sulla situazione, che è decisamente delicata. Alberto. Ma sì, serve salvare i due ostaggi, questo non c'è dubbio, è una delle priorità, salvare la vita, anzi la priorità fondamentale per tutti. E poi però bisogna anche stabilire cosa si vuole fare politicamente, perché inutile nascondersi, c'è un'accelerazione verso quella che è un'operazione militare internazionale. Si parla di inviare o di rinforzare la presenza che c'è già sul campo delle forze speciali, degli agenti di intelligence, per preparare il terreno poi a un intervento internazionale. Ma sia chiaro, dalla descrizione che facevo prima, una descrizione di un paese come la Libia che somiglia alla Somalia, soprattutto per la sua frammentazione, che non aspettiamoci che gli occidentali, gli italiani, li vengano accolti come liberatori. Ci sarà sempre qualcuno, e sono parecchi, tra le milizie armate che vedrà la presenza italiana e occidentale come un atto ostile. Sempre, perché era un'ex colonia anche per questo, a parte appunto le forze occidentali. Ma in generale. Ma non è tanto perché era un'ex colonia, perché gli italiani, se vogliamo andare a vedere, erano i meno sgraditi tra le presenze straniere, ma soprattutto perché in un paese come la Libia la presenza straniera è poco tollerata. Attenzione, continueremo la guerra, questa è una guerra complessa. Se guardate la Cirenaica, che è grandissima peraltro, e lì c'è l'influenza fortissima dell'Egitto che appoggia il generale Khalifa Haftar, ma poi c'è la presenza francese sul terreno nel Fezzan e nella stessa Cirenaica. L'obiettivo, che sarebbe quello di combattere l'ISIS, certo è un obiettivo, ma è anche il pretesto per un intervento internazionale per definire delle zone di influenza. Come sempre. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alberto. Prima di lasciarci per questa pausa di ricreazione, Karim al 349-238-6666 scrive a proposito del ponte sullo Stretto di Messina rievocato da Renzi: quando un governo annuncia il ponte sullo Stretto di Messina vuol dire che sta alla frutta. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo le notizie più importanti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi che riguardano il ponte sullo Stretto di Messina dopo la rievocazione di Renzi. Detto prima o poi si farà, prima però le opere incompiute, poi si farà questo ponte di Messina, ha detto oggi Renzi. Elena dice: il ponte di Messina argomento comico per far sorridere, grazie Renzi, ma pensa alle cose serie. Dice poi invece un altro ascoltatore, la pensa diversamente, dice al 349-238-6666: ce ne fossero di mostri di Loch Ness, visto che io ogni tanto lo chiamo mostro di Loch Ness perché riaffiora di tanto in tanto dal mare. Dice: ce ne fossero mostri di Loch Ness così come già per l'alta velocità, l'Expo e i grattacieli di Porta Nuova, Milano questo, a cose fatte. Dice: quanti Volta Gabbana entusiasti. Poi ancora altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma siccome tra poco c'è un'altra importante ospite su un argomento di questa sera, vi ricordo velocemente le notizie più importanti. Libia, uccisi due ostaggi italiani, forse usati come scudi umani dall'ISIS, sarebbero tecnici rapiti a luglio scorso, vivi gli altri due, ne abbiamo appena parlato. Mutui, il governo corregge il decreto che recepisce la direttiva europea, case alle banche solo dopo 18 rate pagate in ritardo. Appalti, il Consiglio dei Ministri vara il nuovo codice, più potere all'autorità nazionale anticorruzione. Ponte sullo Stretto, Renzi annuncia che si farà, ma prima le altre opere incompiute. Immigrazione, appello del Presidente del Consiglio europeo agli immigrati irregolari, non venite in Europa. Honduras, assassinata l'attivista Berta Cáceres, nel 2015 ebbe il Nobel alternativo dell'ambiente. Torna a far parlare di sé Pietro Maso, in realtà era già tornato a far parlare di sé il mese scorso. Pietro Maso è colui che a 19 anni, il 17 aprile del 91, vi ricordate, aiutato da tre complici, uccise a Montecchia di Crosare in provincia di Verona i genitori per mettere mani sull'eredità. Un duplice omicidio che è ricordato come uno dei più efferati nella storia degli ultimi 30 anni dell'Italia. Era tornato, vi dicevo, a far parlare di sé a metà gennaio di quest'anno, in occasione dell'uscita di una sua intervista sul settimanale Chi. C'era questa copertina a lui dedicata, lui a torso nudo, con quest'aria da duro, un po' così da divo, devo dire, uscito dal carcere, lo ricordiamo, nel 2013, dopo aver scontato 22 dei 30 anni di condanna, oggi ha 44 anni, e diceva in questa intervista che era un uomo nuovo e che era profondamente cambiato, pentito, che aveva scritto anche una lettera al Papa, il quale gli aveva telefonato 3 anni fa, anche se poi padre Lombardi, portavoce fino a poco tempo fa del Vaticano, non ha confermato né smentito. Aveva detto che ora voleva fare solo del bene, che voleva aprire una comunità in Spagna per occuparsi di persone disagiate. In coincidenza con l'uscita di quell'intervista si era presa la notizia che la procura di Verona aveva iscritto Pietro Maso nel registro degli indagati con l'accusa di tentata estorsione nei confronti delle due sorelle, anche se l'avvocato delle sorelle aveva detto no, loro si sono sentite minacciate perché hanno ricevuto per sbaglio un suo SMS indirizzato a un amico, e lui minacciava questo amico dicendo: o mi dai soldi o ti vengo a spaccare la testa, insomma. Dopodiché gli stessi inquirenti che indagavano su di lui per questo tentativo di estorsione hanno adesso acquisito delle intercettazioni che risalgono a pochi giorni fa, in cui Pietro Maso dice in pratica: le mie sorelle, dice a un'altra persona, su di loro devo finire il lavoro di 25 anni fa. Praticamente queste, se non esattamente le parole, sono il senso e il tono di queste telefonate di Maso, che sono subito finite nel mirino degli investigatori. Si tratta, secondo gli investigatori, di minacce di morte rivolte all'indirizzo delle sorelle Nadia e Laura. Martedì quindi la questura di Milano ha notificato a Pietro Maso il foglio di via obbligatorio, nel senso che proprio se ne deve andare dalla città, se no incorre in altri guai. E intanto i carabinieri di San Bonifacio in provincia di Verona, dal momento che ritengono le minacce fondate e gravi, hanno rafforzato la protezione alle sorelle. Ne parliamo con la notissima criminologa Roberta Bruzzone. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi. Viene da pensare, certe persone, lei che è anche psicologa forense, sì, dopo aver attuato un'azione, un delitto così grave come quello che fece Pietro Maso di fa, hanno la possibilità di cambiare completamente? Guardi, la vicenda di Pietro Maso in qualche modo è un po' il prototipo di quello che accade normalmente. Quando soggetti commettono reati della natura di quelli commessi da Pietro Maso, tra l'altro brutalissimi e rivolti a persone che nei suoi confronti si erano sempre prodigati, qua parliamo dei suoi genitori. Peraltro ricordo che davvero all'epoca dei fatti lui pianificò anche l'omicidio delle sorelle e in qualche modo questa cosa si evitò per un soffio perché il metodo che lui aveva ideato non funzionò. Quindi in questo senso è davvero purtroppo attendibile questo genere di proposito sotto questo profilo, perché è una personalità come Maso, che peraltro viene anche ampiamente esaminata sotto profilo psichiatrico, francamente io non credo abbia margini per mutare, ma sicuramente non ha margini per migliorare, insomma. Quindi voglio dire, stupiamo davanti a questo tipo di manifestazioni? Ancora crediamo realisticamente che il carcere possa cambiare questa tipologia di soggetti? Beh, credo che per alcuni sia semplicemente la conferma della regola, per altri l'ennesimo brusco risveglio. Purtroppo, dottoressa Bruzzone, perché appunto si pensa sempre, si spera che a distanza, insomma, ha fatto 22 anni di carcere, era uscito dicendo... Ma non è che il carcere magicamente cambi la natura profonda di alcuni soggetti. Qui parliamo di una persona profondamente narcisistica, ma che è qualcosa che normalmente non si riesce a modificare quando c'è una struttura abnorme di questo genere. Quindi il carcere non è che sia una condizione migliorativa del genere umano, insomma, no, sotto questo profilo. Non ci sono percorsi ad hoc per personalità profondamente antisociali come la sua. Quindi cosa pensavamo? Che realmente 22 anni di carcere, 30, potessero cambiarlo? Ma ripeto, mi sembra irrealistico, soprattutto avendo ben in mente quali fu il quadro delitto personologico che venne tratteggiato all'epoca in relazione al delitto che commise in maniera estremamente premeditata, seppur in maniera goffa, peraltro coadiuvato da un gruppo di amici con l'obiettivo di fare in modo di non avere più vincoli sotto il profilo economico. I genitori erano semplicemente un bancomat che siccome non elargiva il denaro nella misura in cui desiderava, a quel punto lui si era semplicemente limitato a fare in modo di non avere più vincoli. Nella sua testa questo era qualcosa di assolutamente plausibile, capite? Cioè, pensiamo che un soggetto del genere possa cambiare? Dottoressa Bruzzone, a questo punto, di fronte a queste minacce, a queste intercettazioni che effettivamente ci sono, e alle sorelle che sono così in pericolo, la magistratura, gli inquirenti, le forze di polizia, cosa dovrebbero fare? Beh, intanto procederanno, insomma, mi pare di capire che le sorelle comunque abbiano già segnalato all'autorità giudiziaria quanto stava loro accadendo. Alla luce anche di queste intercettazioni, indubbiamente potrà avviarsi un nuovo procedimento che probabilmente si tradurrà in un nuovo processo. Alla luce di quello che è già accaduto, credo davvero che Maso molto presto rivalcherà le storie del carcere. E d'altronde, insomma, non sembra che ci siano molti altri epiloghi possibili. Vogliamo fare come Izzo? Vogliamo dargli la seconda chance, così magari ce ne finiscono altre due sottoterra? Del delitto terribile del Circeo. Certo. Grazie dottoressa Roberta Bruzzone. Prego. Grazie, buona lavoro. Serata. E poi la risentirete anche dovrebbe essere a Porta a Porta anche stasera, dottoressa Bruzzone. Io direi che potremmo andare in viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ancora qualcun altro dei vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte. Toti dice: sono siciliano, mi auguro che prima o poi venga fatto questo ponte, ma ha ragione Renzi, vanno completate, migliorate e ammodernate le reti stradali e ferroviarie siciliane. La verità è che sono solo belle parole e invece le varie strade, Catania, Palermo per esempio, dice è vetusta e interrotta. Stefano ha detto che lui non lo farà, ma senza offendere i sostenitori del progetto. Non è proprio così Stefano. Un altro Stefano scrive: prima servono 3 carceri nuove da 10.000 posti con almeno 6 metri quadri per carcerato, poi 1 milione di statali a casa, quindi tutti i ponti che volete, sempre quegli statali. Stefano. Alberto, che tutti parlano del ponte, si crea polemica e per un po' si parla meno dei problemi seri. Cristiano, un violentissimo colpo di phon al riporto di Trump e il ponte è fatto, dice, vabbè, un po' di ironia. Simone, Rio de Janeiro c'è un ponte lungo 13 chilometri, non è una cosa strana costruirne. Giorgio dice: dire prima o poi vuol dire poi, troppa risonanza sulla questione, che ogni tanto riemerge, come dicevo, il mostro di Loch Ness, e fa una certa impressione comunque sentirne parlare. Ma le notizie più importanti, appunto, ritornando, sono i due italiani, due ostaggi italiani uccisi in Libia, in un conflitto a fuoco tra milizie libiche e un convoglio dell'ISIS. Sono, pare però, vivi gli altri altri due ostaggi. Mutui si cambia, la morosità passa da 7 a 18 rate, protesta il Movimento 5 Stelle e vengono espulsi in 11. Il governo rivoluziona gli appalti, più potere l'autorità nazionale anticorruzione, il Consiglio dei Ministri vara il nuovo codice. E poi Orfini, presidente del PD, che chiude a Verdini, dice sono off limits le primarie del PD, perché appunto Verdini ha detto che potrebbe sostenere qualche candidato, per esempio Roma Giachetti del centrosinistra, per le elezioni amministrative. Appello del presidente del Consiglio europeo Tusk ai migranti irregolari, non venite in Europa. E poi la Cassazione che condanna la RAI per danni da fumo passivo. Adesso c'è l'appuntamento con Youson, la rubrica che propone un dialogo tra elettori e rappresentanti dell'Unione Europea, rappresentanti dei quali sul sito di Radio 24 potete trovare i contatti elettronici per conoscere meglio il loro lavoro. Youson, incontro con gli europarlamentari. Nome? Andrea Cozzolino. Età? 53 anni. Nato a? A Napoli. Eletto in? Nella circoscrizione sud. Con quanti voti? All'incirca 136.000 voti. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Socialisti Europei. Segni particolari? Leone. Quante lingue parla? Ovviamente l'italiano, ma anche e soprattutto l'inglese. Competenze europee in 10 parole? In modo particolare politica di coesione, quindi fondi strutturali, sviluppo e crescita regionale. Benvenuto nella Youson di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'impatto del lavoro sommerso sull'economia europea è stimato intorno al 18% del PIL. Come si contrasta il fenomeno a livello europeo? Io credo che la scelta che possiamo fare a livello europeo con maggior determinazione è avere una comune legislazione sul lavoro. C'è troppa differenza sulle materie che riguardano il lavoro e questo produce un impatto negativo e fa crescere soprattutto il sommerso. Tonno rosso, le nuove quote europee di pesca favoriscono i grandi armatori rispetto alla piccola pesca? Sì, purtroppo sì. È un tema europeo, ma è anche un tema delicatissimo dal punto di vista italiano. Spetta all'Italia, che ha margini di maggiore discrezionalità nella definizione dei criteri, riaprire una sfida soprattutto verso gli operatori di pesca artigianale. Di cosa si occupa la Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, di cui è vicepresidente? Noi spesso sentiamo parlare di fondi strutturali. Noi ci occupiamo di questo, di programmarli, di guidarli nella fase di attuazione e di verificarne la qualità della spesa. Fondi europei e ritardi italiani nei piani strategici di settore. Che fare? Siamo in ritardo, ma abbiamo fatto un lavoro enorme nel corso degli ultimi 2 anni per recuperare questo ritardo, sia nella vecchia programmazione 2007-2014, sia sulla nuova programmazione 2014-2020. Europa con o senza Inghilterra? Possibilmente lavorando tenacemente con l'Inghilterra. Sarebbe un'Europa più povera, più esposta, soprattutto sui mercati finanziari. Meglio fare politica in Europa o in Italia? Io preferisco l'Europa, è il teatro decisivo per la politica anche italiana. Molte delle cose che discutiamo in Italia discutiamo male e con ritardo rispetto a quando lo facciamo in Europa. I protagonisti della politica europea sono meno famosi di quelli italiani? È un antico vezzo italiano, cioè di un provincialismo tipico italiano. Guardiamo al Parlamento come un'istituzione molto lontana. Eppure il paradosso è che i parlamentari europei sono costretti a raccogliere migliaia e migliaia di fidi di preferenze e quelli italiani sono nominati. Quindi il problema non è essere meno famosi, il problema è recuperare, soprattutto dal punto di vista comunicativo, un'attenzione nuova verso l'Europa. 3 aggettivi che la descrivono. Testardo, meticoloso, intuitivo. Youson, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ritorniamo ancora insieme con i vostri messaggi, dice per esempio su WhatsApp questo ascoltatore: sono un medico siciliano, la nostra sanità è al collasso, in particolare nella provincia di Catania, poco personale, ospedali nuovi pronti che non vengono aperti, altro che ponte, dice questo medico siciliano. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Roberto scrive: di recente, se ricordo bene, alcuni ponti in Sicilia sono crollati come ricotta nei cannoli siciliani, io comincerei a mettere cornetti in tutti i cantieri coinvolti. Poi dice, facendo i seri, la priorità in Sicilia è quella idrica, cioè scandaloso che in alcune località siciliane l'acqua arrivi col contagocce. Buon lavoro, grazie del complimento. Ha ragione su questo Roberto dell'emergenza idrica che dura da un'infinità di tempo in Sicilia. È incredibile pensarci che davvero in alcune città, in alcuni paesi, bisogna aspettare che arrivi l'acqua. Poi dice un altro ascoltatore, questo è il 349-238-6666, riesumare il ponte sullo stretto di Messina è certamente un errore che ricorda orrori del recente passato. Comunque, da qui a dire che questo governo è la frutta, come diceva prima un ascoltatore, dimostra uno scarso senso della realtà. E allora vi lascio con questa realtà al momento, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Per voi, noi ci risentiamo per gli aggiornamenti e le notizie alle 22.